Ma perché scappi quando io ti cerco? Io ci ho provato, ma non mi dà il tempo di dimostrare quello che c'ho dentro. Non voglio che più o meno passi il tempo. Per la prima volta respiro assento. Voglio congelare questo momento. Se solo avessi potrei di farlo, vorrei provarci un giorno dopo l'altro. Datemi il cuore di qualcun altro, non voglio sentire affatto. Fatemi vivere sempre al massimo senza rimpianto. Datemi il cuore di qualcun altro, così non sarai a farlo a soffrire perché tu scappi e mi lasci da solo, ma se sono solo piango. Scappa, lasciami correre, correre per raggiungerti. Non mi fermare, tu fermati. È ora di guardarmi negli occhi. Ora tu dimmi le apriti, dimmi quello che senti. Sento che non vuoi farle, mi chiedo perché. Ma perché scappi quando io ti cerco? Io ci ho provato, ma non mi dà il tempo di dimostrare quello che c'ho dentro. Non voglio che più piano passi il tempo. Il tempo è già passato, se n'è andato. Ma è con il tempo che io l'ho capito. Se aspetti, aspetti, spererai soltanto. Se invece oggi ci verrai ripagato. Ma perché scappi quando io ti cerco? Io ci ho provato, ma non mi dà il tempo di dimostrare quello che c'ho dentro. Non voglio